E allora continuiamo questa maratona, siamo nell'ultima ora e nell'ultima ora insieme a Donna Sonica noi vi proponiamo alcune poesie comiche lesbiche che abbiamo chiesto a delle amiche lesbiche, attrici comiche e drammaturghe, si dice così, si dice drammaturghe? Ebbene, si dice così. Si dice drammaturghe, esatto. E allora... poesie comiche lesbiche di Elena Rossi con Angela Soldani che ce le interpreta. Iniziamo con la prima. E la prima ci dice così Elena, che la prima poesia che ha scritto è quando è venuta a Pisa Lilian Faderman alcuni anni fa. E per tutte noi la Faderman è una scrittrice che ha scritto e quindi ha elaborato qualcosa circa l'amore lesbico e l'amicizia romantica tra donne e compagne. Quindi sentiamo questa prima poesia di Elena. È fighissima. Donna lesbica, femminista lesbica, separatista lesbica, ogni tanto bisogna usarla la parola lesbica. Pensiero lesbico, sguardo lesbico, corpo lesbico, sesso lesbico, ogni tanto bisogna farlo l'amore lesbico. Sorella lesbica, madre lesbica, figlia lesbica di coppia lesbica, ogni tanto sarebbe bella una famiglia lesbica. Amiche lesbiche, ex fidanzate ovviamente lesbiche, ogni tanto è bello avere una rete di relazioni lesbica. Aperitivo lesbico in un bar lesbico, cena lesbica in un ristorante lesbico. Lesbico, ogni tanto sarebbe bello mangiare e bere lesbico. Romanzo lesbico, poesia lesbica, letteratura lesbica, arte lesbica, film lesbico, musica lesbica, storia lesbica, geografia lesbica. Ogni tanto bisogna farla, la cultura lesbica. Crociera lesbica su una nave lesbica con capitana lesbica che approda solo nei porti lesbici. Ogni tanto sarebbe bella una vacanza lesbica. Ospizio lesbico, con infermiere e dottoresse lesbiche, in un giardino lesbico, con alberi e fiori lesbici. Ogni tanto sarebbe bello poter andarsene da lesbiche. Fioraia lesbica, benzinaia lesbica, postina lesbica, meccanica lesbica, panettiera lesbica, insegnante lesbica, ginecologa lesbica, avvocata lesbica, sindaca lesbica, capa dello Stato lesbica. Non esageriamo. Presidente del Consiglio lesbica. Ogni tanto sarebbe bella una boccata d'aria lesbica. In questa notte molto lesbica, guardo le stelle lesbiche fuori dalla finestra lesbica della mia casa lesbica e disegno con tratto indelibilmente lesbico un mondo migliore, incredibilmente lesbico. Got on a city bus and found my vacant seat. I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off the bus. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, is that you? Seems like every time I see you, darling, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and starting moving towards a coffee-colored Cadillac. Was pushing through the crowd, trying to get to where she's at, and I was campaigning, shouting like a southern diplomat. Nadine, honey, is that you? Yellow cab heading uptown. I caught a loaded taxi, paid off everybody's tab, left a $20 bill and told them, catch a yellow cab. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, is that you? Seems like every time I catch you, watch you, you wear up the song to you. allora siamo sempre nella lunga diretta di 24 ore, siamo verso la fine e ancora una volta vi vogliamo proporre qualcosa scritto da Elena e recitato con Angela. Strega Bacheca e Strega Ciofeca è una fiaba in endecasillabi a rima baciata, scritta per le storie di streghe intorno al fuoco delle Amazzoni maremmane, che parla di come si può uscire dall'isolamento e dalla disperazione attraverso la condivisione, indovinate un po', l'amore. Ed ecco a voi Elena e Angela. Strega Bacheca e Strega Ciofeca. C'era una volta, due volte e poi tre, un tempo lontano che più non ce n'è, un mondo bello, diverso e migliore, dove le donne facevano furore, pieno di streghe, di maghe e di fate, stupefacenti, ammalianti e fatate. Con le magie guidavano il mondo e proprio loro l'han fatto rotondo. Fra questi c'era una strega bassina, che aveva un naso dal tetto in cantina, la schiena storta, le tette cadenti, capelli di stoppa, buchi fra i denti. Le altre streghe non la volevano e sempre in giro lor la prendevano. Strega Bacheca l'avevan chiamata, di ogni magia l'avevan privata. Lei con la scopa ed il pentolone e gli ingredienti per ogni pozione, code di rospo o baffi di serpente. Bacheca non ci capiva niente. Il suo problema, sapete qual era? Era che lei, né giorno né sera, non c'è magia che riesca a fare, né un incantesimo a pronunciare. Lei sulla scopa aveva tentato e quella volta il naso troncato. Se trasformava un rospo in principessa, veniva fuori una gallina lessa. Se preparava un filtro d'amore, chi lo beveva sentiva un bruciore. Dovete ammettere che era frustrante essere strega e non stregar niente. In cima al monte le era salita, se una magia le fosse riuscita, ed ogni giorno tentava e tentava, formule magiche le recitava, ma sempre più continuava a fallire, non c'era verso di far apparire. Così si chiedeva, sbaglio qualcosa? Ai suoi disastri non c'era mai posa. Un giorno alla porta della sua grotta avverte un colpo tremendo, una botta. Allora si affaccia dalla finestra perché, essendo strega tanto maldestra, pensa si tratti di qualche dispetto, che il naso voglian tagliarle di netto, le altre streghe per prenderla in giro le abbian giocato questo bel tiro. Dalla finestra Bacheca non vede niente di niente e allora le crede che quel rumore non era reale, magari la gatta dietro le scale. Ma quando sta per tornare al lavoro, sente uno strillo alquanto sonoro. Qualcuno grida, «Ai ai, grillignata, sono completamente rintronata!» Bacheca allora, senza esitare, esce di scatto e va a controllare. Le sue paure, da parte le mette che le altre streghe la facciano a fette. «Chi c'è là fuori?» bisbiglia impaurita. «Se faccio un trucco, sei bella e finita!» «Mi arrendo, ti prego, non farmi male!» dice una voce da dietro le scale. Bacheca inforca gli occhiali sul naso e guarda per terra dentro ad un vaso e vede una cosa mai vista prima che per esprimerla manca la rima. Era di certo tremenda magia, di quelle che fa passare l'allegria. Era una strega, ma in miniatura, tanto piccina da fare paura. E chi delle due tremava di più? Non era chiaro, dillo un po' tu. Insomma, entrambe restarono di sasso e la streghina fece lei un passo. «Scusa se piombo così all'improvviso e se dal volto ti ho tolto il sorriso. Se ho rotto il vaso, rimedio ci metto. Io te lo giuro, la mano sul petto. Che sciocca che sono, hai che sbagata di presentarmi, mi ero scordata!» tese la mano. «Piacere, Ciofeca!» L'altra rispose, «Io sono Bacheca!» Ma la manina non osa toccarla perché ha paura di stritolarla. Ciofeca rimane dentro a quel vaso, triste e depressa, soffiandosi il naso. Bacheca allora, delicatamente, solleva Ciofeca, ma dolcemente, fuori dal vaso, per terra, la posa. Per consolarla, le offre una rosa. E mentre quella continua a frignare, le dice... Scusa, non per disturbare, ma se mi vuoi raccontare la tua vita, tanto son qui che mi incrocio le dita. Ciofeca allora, asciugandosi il viso, abbozza quello che pare un sorriso, per chi lo guarda assai da vicino o con la lente, per quanto è piccino. Mia cara bacheca, devi sapere, te la racconto con grande piacere, ma la mia vita è una storia ben triste, su cose inaudite, cose mai viste. Non ti preoccupare, ciofeca mia, io non ricordo cos'è l'allegria, anch'io conosco soltanto amarezza, dove son io ci sta la tristezza. Ti dico intanto che sono fuggita e non so come qui sono finita. Io un tempo avevo statura normale, né alta né bassa, a te uguale. Streghe malvagie per fare un dispetto mi fecero così per loro diletto e poi mi hanno usato come una pallina. Si sono giocati una partitina, mi hanno scagliata molto lontano e ora forse mi cercano invano. Bacheca intanto annuiva e gemeva perché la storia la condivideva e sempre più si sentiva vicina a quella ciofeca tanto piccina. Non sei poi male così in miniatura, io invece ho una sorte più dura, ma non lo so se ti va di sentire un'altra storia in cui c'è da soffrire. Oh bacheca, dubitare non puoi che io voglia sentire i fatti tuoi. Tu sola sei stata gentile con me e a quanto ho capito ho stregato anche te. Hai proprio ragione, disse bacheca avvicinandosi intanto a ciofeca. Anche la mia è una storia ben triste, di cose inaudite, cose mai viste. Streghe malvagie mi han trasformata, di ogni magia mi hanno privata. Bacheca mia, che mi dici mai? Streghe malvagie, nient'altro che guai. Ma ci deve essere una soluzione, trucco, incantesimo oppure pozione. Così ciofeca si mise a pensare se c'era qualcosa da poter fare. Sai cosa ti dico, mia cara bacheca? Che come ver che mi chiamo ciofeca, benché io sia così in miniatura, possiamo far loro tanta paura. Una magia, anche se piccolina, posso tentar con la mia bacchettina. Mini magia, mini mini, sei tu e quella sole non ti ritrovi più. Ora bacheca ha un naso perfetto e non possiede neppure un difetto. Cara ciofeca, ti ringrazio molto perché l'orribile nasone mi hai tolto. Nessuna era stata gentile con me, tutte cattive le streghe tranne te. Ciofeca fa un sorriso smagliante, così piccina si sente importante. Le scrocca un bacio in mezzo alla guancia, bacheca arrossisce fino alla pancia. Devo pensare a darti il mio aiuto per recuperare l'altezza che hai avuto. Dice bacheca e non ha più paura dei suoi poteri, si sente sicura. Si sente grande la strega bacheca, grazie a quel bacio di mini ciofeca si sente battere forte il cuore e proprio questo è il potere d'amore. Così nel suo pentolone prepara una pozione, ma proprio assai rara. Ci mette quello che le viene in mente, code di rospo, baffi di serpente, dice le formule che ha imparato e anche quelle che ha dimenticato. E quando infine è pronto l'intruglio, tutta tremante in grande subbuglio, lei a ciofeca lo offre da bere e se funziona resta a vedere. Ciofeca scola il filtro fatato, non goccia a goccia, ma tutto d'un fiato, e così sente le braccia stirarsi e nel contempo le gambe allungarsi. E all'improvviso cresce l'altezza, diventa proprio una gran bellezza. E mentre avviene questa magia, ciofeca esulta per l'allegria. Visto dall'alto è proprio un bel mondo, abbiamo fatto bene a farlo rotondo! Bacheca esulta della sua riuscita e grida. Infine la sfortuna è finita. E intanto l'amica lei se l'abbraccia, le gambe, i fianchi, anche la faccia. E l'altra ricambia le tenerezze con baci, abbracci e pure carezze. Tra le due streghe è sbocciato l'amore che taceremo per sommo pudore. Sul monte decise di rimanere e per ricavare più grande piacere quella grotta che si ritrovavano in una reggia la trasformarono. E si giurarono amore eterno, dalla primavera fino all'inverno, e dall'inverno fino a primavera, e dal mattino fino alla sera. Trucchi e incantesimi ne fanno iosa, quelle bacchette non hanno mai posa. Le streghe malvagie non temono più, e quando le vedono fanno... Volete sapere qual è la morale? Che se la tua vita è un disastro tale che niente sembra andar per il verso, ogni trattativo è tempo perso, basta fermarsi un po' ad ascoltare, perché c'è sempre chi può raccontare un'altra storia ancora più triste di cose non udite, cose mai viste. Così raccontando si condivide e condividendo forse si ride, ridendo e ridendo dentro al tuo cuore sentirai nascere certo l'amore. Questo è successo alla nostra bacheca e alla sua amica piccina Ciofeca. E se è triste la storia finire, se vi è piaciuta potete applaudire. Giorno per la via, stavo a casa de zia, a certo punto sento un fischio, io me giro e cazzo voi, ma come sei contenta, te sto a fono complimento, mi risponde sto coglione, allora io gli dico vai, oh vai, oh vai, oh vai, vai, oh vai, oh quando vado nei cantieri e controlla i lavori, perché io so architetta e devo pure lavorare, sempre incontro un deficiente che mi dice architetta come le tette di tua madre, allora io gli dico vai, oh vai, oh vai, oh vai, vai, oh vai, oh vai, oh vai, in autostrada mi son fermata all'autogrill per mangiarmi una frittata e bevemme un caffè, sono scesa dal furgone e c'è stava un signore che mi dice ma sto furgone lo guidi proprio te, ma vai, oh vai, oh vai, oh vai, vai, oh vai, oh e questa era la menestrella femminista richiesta, grande richiesta, insomma ve l'abbiamo fatta anche ascoltare, perché poi mi dicevano giustamente che durante la notte è passata, però magari qualcuna se l'è persa. Andiamo con la terza poesia. Andiamo. Allora, sempre Elena ci rende edotte sull'ultimo l'ultimo lavoro che ci ha generosamente dato da leggere, da sentire anzi, ed è Sappho and the Girl, sentite come pronuncio bene l'inglese, ed è una discussione filosofica sull'andare o non andare a una festa, che mi sembra importante, no? Ed è sempre in endecasillabi, ma non in rima. ma con degli accenti che cadono sulle stesse sillabe all'interno del verso, creando quindi un ritmo. E trasferisce quindi una discussione nel gineceo di Saffo, quindi le dinamiche lesbiche che a noi sono note e penso a molte di voi. Il dubbio filosofico platonico è quello che, data una risposta ad una domanda, ne apre subito un'altra. E per esempio, se c'è una festa, ci vai o non ci vai? E se ci vai, la tua fidanzata ce la porti o no? E se ce la porti, la consideri o fai finta di niente? Eccetera, eccetera, se ne potrebbero aggiungere molte. La grande autorità in materia dovrebbe essere Saffo, a cui tutte si rivolgono per avere lumi. Ma poi va a finire in una grande zuffa, sempre per questioni di priorità, che si risolve in breve tempo in una riconciliazione. Bene, ascoltiamoci l'ultima operetta, mettiamola così, Sappho and the Girl, discussione filosofica sull'andare o non andare ad una festa. Girls, direi. Sappho and the Girls. Discussione filosofica sull'andare o non andare ad una festa. Sedute sotto un rosso melograno, un dì nel gineceo si discuteva del dubbio filosofico seguente. Andare o non andare ad una festa? E Saffo, nostro lume di saggezza, ci disse che, di certo è da sapienti, andare in ogni caso senza indugio. È rara di una festa l'occasione, in questi tempi bui che ci addoloran, ed è una gran fatica tra scuse, bugie, finzioni o false malattie, che se non congegnate a perfezione, c'è il rischio che la verità riappaia, e tu ci fai figura di meschina e la reputazione di saggia perdi. E tutte concordammo che era saggio. Artemi, che era amante della caccia, ci pose dopo ciò l'alternativa. Ma quando stabilisti dell'andare, si apre un altro dubbio assai cogente. La porti o non la porti la tua amata? Stagira, che era alquanto fusionale, rispose che è da saggia certamente menare assieme a sé la propria donna, poiché non puoi saper prima di andare chi troverai o non troverai nel luogo, se donne savie o sciocche, belle o brutte. E tutte concordammo che era certo. Tutte tranne Lide, lo sguardo che t'uccide, che disse a questo punto con sarcasmo. O Saffo, tu ti sbagli senza dubbio e io te lo dimostro immantinente. Poniamo il caso che tu sia invitata a questa festa insieme alla Selene, che ami più del giorno e della notte. Poniamo che Selene venga teco e tu te ne stai per conto tuo e lei di conseguenza per il suo. Poni anche tu la veda da lontano, recarsi tra i cespugli insieme a un'altra, ed ella sia un'immagine divina che né terra né cielo altre pari. Che fai tu in questo caso? Ti bevi indifferente la tua ambrosia? E tutte concordammo che era un dramma e che c'era una qual certa ironia in ciò che Lide aveva proferito, poiché da tempo ben conoscevamo l'amor di Saffo verso la sua ambrosia. E Saffo allor si fece rossa in volto, colpita nel suo orgoglio e nel suo cuore, rispose aspramente sibilando. È ben più che evidente, Lide, cara, che tu non puoi neppure immaginare la gran saggezza che è nel concepire un'opera divina e celestiale, l'ambrosia, una bevanda il cui segreto le dee han tramandato solo a noi, perché lo custodissimo con cura. Poniamo il caso che, disse Leonzia, scuotendo la sua fulgida criniera. Voi vi rechiate là, ov'è la festa, e vi troviate donne alquanto sagge, affascinanti eppure assai attraenti. Vi comportate come con l'amata? Le state appiccicate ogni momento? L'abbandonate libera a se stessa? Se ognuna fa a suo agio i fatti propri e parla con chi vuol, rispose Taide, la saggia femminista assai rodata, questo è comportamento da sapienti. E tutte concordammo che era tale. Ma se io me ne sto per conto mio e lei di conseguenza per il suo, Melita disse, dolce come il miele, che pensano le altre invitate? Due sono le alternative in tal caso. Diranno che voi avete litigato e che siete sul punto di lasciarvi, oppure che state tanto bene insieme che non vi è alcun bisogno di mostrare. Questo è un quesito assai spinoso, ci disse poi prendendo la parola la Saffo, nostro lume di saggezza. Ma un modo molto semplice e indolore risolve la questione immantinente. La donna che è davvero tanto saggia non tiene nessun conto del pensiero che altri possa avere su di lei. E dunque, perché starsi a preoccupare? E tutte concordammo che era giusto. Selene si rechi tra i cespugli con uno o due compagne, non mi cale, più saggio è continuare a ber l'ambrosia. E in poche concordammo che era saggio, ad altre non parea una buona idea. Selene, lunghi crini come argento, a questo punto inviperita assai, l'amata aggredì con gran veemenza. Mi fa molto piacere, Saffo cara, sapere che è un consesso di tal fatta che tu mi preferisca la tua ambrosia, e a te per niente cale se mi reco con una addirittura due compagne in mezzo a frasche, fronde o erano cespugli. E tutte le risposero: cespugli! Selene continuò ancor più stizzita: se avessero a me posto un tal quesito, io certo avrei risposto in altro modo. E tutte noi volemmo sapere quale. Se io, poniamo il caso, mi reco ad una festa e la mia amata Saffo porto meco, e mentre me ne sto per conto mio e le di conseguenza per il suo, se poi vedessi Saffo da lontano recarsi tra i cespugli insieme a un'altra, volete voi saper cosa farei? E tutte rispondemmo: sì, sicuro! E mentre lei parlava in questo modo, a Saffo, che era bianca come un cencio, si fa vicina a passi assai felpati. La graffierei, le strapperei i vestiti, la morderei sul collo e sulle braccia. A tali parole, aspre e pur crudeli, seguivano le azioni di ugual sorta, e Saffo intanto, tutta scarmigliata, cercava di sottrarsi alla sua presa. Oh, Dea, pietà di me, che non sia mai! Dicevo solamente per parlare. È l'Ide che mi ha posto quel dilemma, è lei quella che devi massacrare. E alcune concordarono con ella, ma altre incitavano Selene. E l'Ide, che sdraiata su una maca all'ombra del suddetto melograno rideva a crepapelle delle amiche, ignora ciò che presto l'aspettava. Selene allora concordò con Saffo, entrambe si drizzarono al contempo e pari a furie da capelli attorti di serpi, serpentelli, bisce e vermi. La Lide, lei che più non se la ride, la fecero cadere dalla maca e sbattere il di dietro ben tornite. Alcune concordavano con l'Ide e accorsero a difendere l'amica. Con Saffo e con Selene altri si unirono, così nacque una zuffa generale. E tutte a rotolarsi giù per terra, alcune si tiravano i capelli ed altre si strappavano le vesti, volavano pugni, morsi, calci e schiaffi, si udivano dei gridi assai sonori. Io teco mai più vengo ad una festa, ti ho vista fra i cespugli con un'altra! Finché Saffo si fece una risata, insieme con Selene e anche con Lide, e tutte concordammo che era meglio. «Oh, Saffo!» disse Taide, un po' acciaccata, che ancor aveva l'affanno ed il fiatone, ma sempre femminista assai rodata. «Di tutta questa nostra discussione, qual è l'insegnamento che ne traggo?» E tutte volevamo sapere uguale. Andare o non andare a quella festa? E la mia amata me la porto meco, e se io me ne sto per conto mio e lei di conseguenza per il suo, che faccio se la vedo tra i cespugli recarsi insieme a un altro oppure due? E Saffo fece un gesto con la mano per far ormai cessare quel discorso che già avevamo sentito tante volte, e dopo aver pensato qualche tempo ci disse infin con voce assai sapiente: è ben più che evidente, amiche care, la donna saggia, in quanto onesta e giusta, è anche onesta e giusta in quanto saggia. E tutte concordammo che era tale, benché in realtà nessuna aveva compreso che mai volesse dirla cara Saffo. Ma lei ne rifiutò la spiegazione e, volta verso Lite, che era al lato, così la apostrofò con grande amore. «O Lide, mia diletta, ti ricordi ov'è finito il calice di ambrosia?» «È sotto il melograno, cara Saffo», rispose Lide con grande sorriso. e tutte concordammo che era lì.